Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi vi propongo per cominciare due autori di lingua inglese. Il primo è un americano, Don DeLillo, dico il nome all'italiana perché la famiglia è di origine del nostro paese. Il libro si intitola appunto Omega, in Audi, 120 pagine, 18,50 euro, è tradotto da Federica Aceto. L'autore è uno degli ultimi grandi vecchi della letteratura americana, che torna qui con un romanzo breve, insolito e algido, dove si intrecciano riferimenti a film famosi, all'arte contemporanea, alla solitudine di un ex potente. Questa l'avrete riconosciuta pure, è una scena fra le più famose del film Psycho di Hitchcock, perché proprio il film Psycho fa un po' da leitmotiv a questo libro. Infatti incontriamo i due protagonisti al MoMA di New York, dove assistono alla performance di un artista contemporaneo, Douglas Gordon, il quale utilizza il film di Hitchcock per trasformarlo in una performance artistica, dilata la durata del film fino a che esso duri per 24 ore continuative. E dinanzi a questo spettacolo appunto troviamo i due protagonisti, cioè un giovane cineasta, Jim Finlay, e una strana figura, un po' studioso e un po' dottor Stranamore, sarebbe uno studioso di stampo neoconservatore, Richard Elster, che ha 73 anni, cioè la stessa età di DeLillo. E i due si sono incontrati perché il giovane cineasta, ancora in attesa di trovare l'occasione di successo, ha proposto al vecchio di fare una specie di intervista cinematografica sulla sua esperienza, l'esperienza che l'aveva visto come grande consigliore del presidente Bush per la guerra in Iraq. All'inizio il vecchio dice di no, poi convoca questo ragazzo a casa sua nel deserto dell'Arizona, dove vivranno insieme per qualche settimana. E da qui nasce una sorta di dialogo, meglio di quasi monologo, del vecchio studioso nei confronti del giovane cineasta, che continua tuttavia a non girare una scena. A un certo punto irrompe una figlia che avrà uno strano insolito rapporto con il ragazzo, e tutto in un'atmosfera rarefatta, tanto che molti critici stranieri hanno parlato di qualche precarietà e di carattere affrettato, per esempio così ha scritto il Financial Times a proposito di questo libro. Altri critici hanno sottolineato la luce d'insonnia, il senso di vertigine di questo libro, sicuramente un po' ossessivo, pessimista, oscuro, che richiama in certi tratti il pessimismo di altri libri americani contemporanei. Ascoltiamo dal libro queste righe con alcune lucubrazioni del vecchio sulla guerra, nelle quali righe troviamo un riferimento al titolo, al punto Omega, che è un'espressione usata dal teologo e paleontologo gesuita Pierre Teilhard de Chardin, col quale egli indicava l'ultimo stadio dell'evoluzione dell'uomo. Siamo una folla, uno sciame. Pensiamo in gruppi, viaggiamo in eserciti. Gli eserciti portano il gene dell'autodistruzione. Una bomba non è mai abbastanza. La confusione della tecnologia, è lì che gli oracoli tramano le loro guerre. Perché adesso arriva l'introversione. Padre Teilhard lo sapeva, il punto Omega, un salto fuori dalla nostra biologia. Chieditelo. Dobbiamo essere umani per sempre. La coscienza è esaurita. Ora si ritorna alla materia inorganica. È questo che vogliamo. Vogliamo essere pietre in un campo. Un altro autore di lingua inglese di grande successo è un irlandese, Joseph O'Connor, del quale adesso esce Una canzone che ti strappa il cuore. Il romanzo è pubblicato da Guamda, 276 pagine, 17 euro, ed è tradotto da Massimo Bocchiola. Il libro ruota intorno ad alcuni personaggi autentici, soprattutto John Synge, che fu il padre della moderna drammaturgia irlandese e che ebbe una relazione con un'attrice, Molly Holgwood, che è un po' la voce narrante di questo libro. Lui muore molto giovane, ha questa relazione complicata con l'attrice, una relazione che naturalmente le famiglie non apprezzano, e lei la troviamo vecchia, ormai abbondantemente avanti sul viaggio viale del tramonto, quasi alcolizzata, povera, ma che naturalmente non può dimenticare la sua grande storia d'amore e soprattutto il rapporto che questo drammaturgo ebbe con la cultura irlandese. Singh infatti era continuamente alla ricerca delle radici culturali e linguistiche dell'Irlanda, sulle quali radici voleva appunto creare un teatro nazionale, un'impresa sulla quale lo spingeva anche il grande Yeats. E su questa trama, apparentemente molto esile, molto semplice, O'Connor ricava un libro capace di suscitare grande emozione e commozione, che certamente non deluderà i fans di O'Connor, tra cui mi colloco anch'io. Sentite per esempio da questo libro alcune righe che illustrano proprio l'opera alla quale si dedicavano alcuni studiosi, tra cui lo stesso Singh, per andare alla ricerca delle radici o delle presunte antiche radici culturali della lingua e del popolo irlandese. Sul sentiero appare una vecchia contadina con al laccio un montone e una cesta di torba nera sulla spalla. Somiglia al capo Comanche sulla copertina del suo almanacco. Gli chiede una boccata di pipa. Ha un figlio nell'Illinois. Lui prova a parlarle in gaelico, di leggende locali, tradizioni, nomi di località del nord rurale di Wicklow. Ha dei ricordi della carestia, parenti in Inghilterra? Lei non capisce cosa stia dicendo. Quando le spiega che sta parlando irlandese, lei lo guarda bonariamente, come si sorride a un monello che ha fatto una domanda indiscreta. L'estate scorsa c'è stato qua nella vallata un professore della Germania e dalla sua bocca uscivano delle sfilze di benedetta lingua gaelica. Dio conservi vostro onore, ma non ha mai sentito una cosa simile. Con un taccuino grosso come la Bibbia dei protestanti e un cappello in testa con la piuma da cacciatore. E quello scarpinava per le torbiere col libro sotto l'ascella e interrogava i vecchi di torbiera per sapere le leggende. E loro, in piedi negli stivaloni, laggiù al fiume, che si grattavano la pera, e il suo uomo che gli gridava da sopra, chiedeva dei vichinghi, uno che ti dava il tormento. Sai delle storie sui santi? Hai mai scannato un porco? Ma eravate davvero cristiani, eravate? Santa fede, ancora un po' e ti chiedeva cosa mangi il mattino a colazione. Cose che non te le cercherebbe un poliziotto, te le cercava questo samaritano qua. E la fame, l'emigrazione, e tutti i vecchi dispiaceri, e che lui li voleva scrivere in questo libro. E con rispetto parlando, ma chi è che poi lo legge? Anche a saper leggere, che qua in vallata non è tanto normale. E accidenti, non c'è nemmeno un'anima convinta che un libro di questo mondo sazierebbe la fame. Non c'è di già abbastanza miseria adesso? Eh? Cosa dice? Nel mondo, senza aggiungercela ancora scrivendola, signore. Passiamo all'arte. A Palazzo Reale di Milano si è appena aperta la mostra dedicata a Dalì, si intitola Il sogno si avvicina, nel curatore Vincenzo Trione. Non mi dilungo sulla mostra perché tra l'altro è organizzata da una società del gruppo che pubblica questa stessa radio, ma in questa occasione vi voglio segnalare il libro dedicato a Dalì di Brassai, il quale era un fotografo ungherese dal nome Gyula Alas, che assunse questo nome d'arte quando andò in Francia, dove arrivò ai primi del Novecento per diventare uno dei protagonisti della vita culturale di Parigi, di cui fu uno dei fotografi più apprezzati. Il libro si intitola Omaggio a Dalì, è pubblicato da Abscondita, 118 pagine, 13 euro. Dopo il testo iniziale, nel quale Dalì viene presentato in questo modo: Salvador era giovane e bello, volto emaciato dal pallore olivastro, ornato di baffi sottili, occhi grandi d'allucinato, sfavillanti di intelligenza e di uno strano fuoco, capelli lunghi da gitano, grondanti brillantini, addirittura spalmati come appresi più tardi di vernice per quadri, troviamo dei testi di García Lorca, di Marais, di André Breton e di Louis Buñuel, con immagini dell'epoca dello stesso autore, naturalmente. E invece su Dalì pittore sentiamo una testimonianza di Marco Carminati. Ciao Marco. Ciao Salvatore. In effetti la mostra di Dalì a Palazzo Reale di Milano è un'occasione abbastanza unica per tornare in contatto con questo personaggio così esuberante, così brillante, che in questa esposizione emerge però per aspetti meno noti, meno scontati, per esempio per la sua formazione, che è molto molto radicata nella cultura della sua nazione, cioè della Spagna, in particolare della Catalogna, ed è molto classica, anche se noi fatichiamo adesso a immaginare un Dalì classico. Dalì aveva studiato attentamente per esempio Velázquez, la pittura spagnola del 600, del secolo d'oro, e da questa aveva attinto una capacità tecnica straordinaria. Se ci avviciniamo in questi quadri esposti a Milano e ci accorgiamo che i dettagli sono dipinti alla perfezione. E poi naturalmente osservava con grande attenzione il paesaggio, cioè la natura mediterranea che in questi quadri naturalmente è stata rimeditata, è un paesaggio, come dice il titolo, da sogno, cioè è una visione onirica del paesaggio, ma sotto in tutti i dipinti di tutto quanto il percorso della mostra noi vediamo questa sua straordinaria attenzione alla cultura della sua Spagna, alla cultura del suo mare, dei suoi paesaggi, delle sue campagne. Addirittura abbiamo un'opera dove si vede la Pietà di Michelangelo che è stata tutta bucherellata e sul fondo si intravede il porto che gli era familiare, dove lui abitava. Questa mostra ha avuto un'inaugurazione molto frequentata e con la presenza di Amanda Lear. Ora molti si sono chiesti perché ci fosse Amanda Lear, ma Amanda Lear è stata una delle persone più vicina a Dalí. Dal 1965, pensate, per 15 anni di fila ha fatto le vacanze con Dalí e con sua moglie Gala. Quando poteva andava, frequentava il maestro, facevano delle conferenze stampa insieme, preparavano le mostre insieme, apparivano insieme con degli sketch insuperabili. E tra l'altro Amanda Lear ha raccontato questa esperienza in un bellissimo libro, La mia vita con Dalí, edito da Costa e Nolan, un libro forse oggi un po' raro, ma è stato pubblicato solo nel 2005, quindi forse si può ancora trovare. E lì ha espresso con grande competenza la sua visione di Dalí, il suo punto di vista, che è un punto di vista che va tenuto conto, perché poche persone sono state così vicine e anche un po' in simbiosi dal punto di vista della personalità esuberante, eccetera, con Dalí. Una volta una giornalista piuttosto cattiva chiese ad Amanda Lear, dice: ma com'è bello il suo libro, signora Amanda Lear, ma mi dica la verità, chi gliel'ha scritto? E lei rispose in modo molto piccato ma molto puntuto, rispose: e lei, signora, chi gliel'ha letto? Quindi è una personalità che oggi ci riporta in vita l'incredibile istrionismo anche di Dalí, che andava alle feste, ogni tanto gli cadeva un baffo perché Dalí portava dei baffi finti e se glielo facevano notare lui diceva: beh, ma non importa, per le persone che devo incontrare basta un baffo solo. Ecco, vedendo questa mostra torniamo un po' all'interno di questo mondo brillante, esuberante, onirico, ma sempre molto molto interessante. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Torniamo adesso alla letteratura di lingua inglese con uno dei padri di quella civiltà letteraria, cioè William Shakespeare, di cui ci offre una lettura profonda e insolita l'ultimo libro di Nadia Fusini, che è anglista, traduttrice dall'inglese, docente universitaria e soprattutto grande appassionata e studiosa di Shakespeare, al quale dedica il libro Di vita si muore, lo spettacolo delle passioni nel teatro di Shakespeare, pubblicato da Mondadori, 496 pagine, 22 euro. Essere, non essere. Qui sta il problema. Cos'è più degno? Patire gli strali, i colpi di balestra di una fortuna oltraggiosa o prendere armi contro un mare di affanni e contrastandoli por fine a tutto? Morire. Dormire. Non altro. L'avrete riconosciuto, era Vittorio Gassman nel monologo dell'Amleto, e parte proprio da Amleto, preso a simbolo della grande realtà che Shakespeare ci trasmette, il libro di Fusini, secondo la quale l'identità umana ha un'intima costituzione teatrale. Proprio Amleto, ci spiega l'autrice, scambia volentieri la propria identità di principe con quella dell'attore, insomma è un principe ma è innanzitutto un attore. La teatralità, che fa parte della vita di ciascuno di noi, si manifesta nella mancanza di identità di fondo, e naturalmente questa mancanza di identità di fondo viene anche in qualche misura riflessa nella biografia di Shakespeare, che è molto incerta, come ricorderete, e anche lacunosa, tanto da aver dato adito ai sospetti che in fondo Shakespeare sia soltanto il nom de plume per un'opera che sarebbe stata scritta da tante altre persone. Ma in fondo questo mito, quello dell'inesistenza stessa del personaggio Shakespeare, è proprio la prova della sua grandezza. Infatti Fusini ricorda come molti non abbiano mai creduto a un solo Shakespeare, perché nessuno, secondo loro, sarebbe capace di dare vita a una tale galleria di ritratti di personaggi quale quella alla quale appunto ci ha abituato William Shakespeare con la sua opera. Perciò Shakespeare è tutti e nessuno, come diceva Borges. Borghese. E qui lo ritroviamo nella sua vita e nelle sue opere. Il libro della Fusini ha l'andamento di un dramma, con un prologo e poi un atto primo dedicato a Bruto, la passione della ragione, un atto secondo su Amleto, la passione del dolore, un intermezzo dedicato al demone della lussuria, l'atto terzo su Otello, l'amore, l'odio, l'atto quarto su Lear, l'ira, la pietà e infine l'atto quinto dedicato a Macbeth e alla paura. Il libro della Fusini dunque ripercorre l'opera di Shakespeare attraverso i personaggi e quanto essi hanno espresso della ricchezza incommensurabile dell'animo umano in tutte le sue bassezze e le sue grandezze. Ma lasciamocelo spiegare dall'autrice. Buongiorno a Nadia Fusini. Buongiorno. Lei spiega nel prologo del suo libro che di avere un rapporto molto intenso con Shakespeare. Vivo la mia vita con Shakespeare per amico, confidente. Ecco, che cosa rende Shakespeare così importante? Che cosa soprattutto può renderlo altrettanto importante per tanti lettori? Dunque, sì, questa confidenza, questa amicizia nasce per me dal fatto che io insegno da anni, io insegno all'Università di Roma, ho insegnato adesso a Firenze, e insegno appunto letteratura inglese, in particolare tenevo una cattedra che si chiama Filologia e Critica Shakespeariana, quindi la lettura di Shakespeare per me è una lettura fatta a voce alta con gli studenti fatta negli anni e sempre un po' pensata in colloquio con qualcuno che volevo comprendesse e godesse di questo straordinario scrittore, per cui è diventato veramente un amico. Quella è una citazione da una canzone, no? Sì, certo. Senta, lei a un certo punto nel descrivere le passioni che descrive Shakespeare le definisce dinamismi dell'essere, le passioni. Che cosa intende con questa espressione? Io credo che appunto Shakespeare ci faccia venire in contatto con le passioni, come una potenza di energia che c'è nell'essere umano, no? Nel nostro corpo, nella nostra mente. E non fa un catalogo delle passioni come appunto le passioni dell'anima, come se fossero appunto delle patologie, giustamente così, poi venivano descritte nei manuali che lui legge e da cui a cui anche attinge. Ecco, per lui dinamismo dell'anima vuol dire che c'è una forza che spinge dentro l'anima, che poi la mente, che poi ecco, e porta l'uomo a essere nel mondo, quindi sono modi di essere nel mondo. Io non credo che potrei, cioè chi è vivo ha una passione, cioè si è vivi se in qualche modo si patisce la passione, no? Anche appunto di esistere, cioè io penso che senza desiderio per esempio non si può vivere, no? Nella sua conclusione lei sottolinea come queste passioni spesso portino a sottolineare un aspetto in qualche modo rivoluzionario di Shakespeare in quegli anni, cioè il fatto che egli sottolinea la centralità della libertà e del libero arbitrio. Sì, e io questo lo leggo in quella meravigliosa tragedia che è Otello in particolare, ma in genere questo è una dimensione molto profonda, in un certo senso che si trova sempre scesa, cioè il suo eroe agisce e a volte appunto sceglie, come lo so, Macbeth, il male, sceglie di uccidere, e però non c'è mai, come nell'eroe greco, che qualcuno lo possiede, cioè un dio che gli fa fare quello che fa, no, è lui con la sua volontà, quindi lì con la sua libertà, diciamo, ecco, e l'uomo è insieme libertà, ma anche responsabilità a quel punto, perché Macbeth non può dire io ho ucciso Duncan perché un dio mi ha accecato la mente, no, cioè lui ragiona, a un certo punto sceglie di non farlo e poi invece sceglie altrimenti da come aveva scelto, insomma ci fa capire come l'esercizio anche della libertà della volontà, cioè io non c'è qualcuno che decide per me e ci mette anche in un grande conflitto, no? Con noi stessi, con i nostri, con quella divisione che c'è in ognuno di noi tra la volontà di fare il bene e il desiderio di magari possedere qualcosa che non ci è dato possedere, tipo la corona, no? Infatti le scrive che l'eroe shakespeariano è in lotta con se stesso. Esatto, è in lotta con se stesso, ma come in un certo senso siamo tutti noi. Ecco, Shakespeare è come dire, no? Io, inventa proprio, cioè trova in qualche modo tutto quello che c'è nell'animo dell'uomo moderno, ecco, un uomo moderno che poi siamo anche noi, cioè persone che hanno libertà di intendere, di volere e desideri e appunto pulsioni che li portano a volere qualcosa che magari non va bene, eccetera. Ecco, e che la vita è fatta anche appunto di tutti questi movimenti abbastanza disordinati a volte, che a volte ci travolgono, ma che anche sono il sale della vita, diciamo. Ecco. Grazie a Nadia Fusini, autrice di Di vita si muore. Buona domenica. Grazie anche a lei. Grazie mille. È stato attribuito nei giorni passati il premio Nobel per la letteratura, che è andato quest'anno a Mario Vargas Llosa, lo scrittore peruviano. È stato un premio atteso, in un certo senso inatteso, atteso dall'autore, dai suoi molti supporter in tutto il mondo, inatteso perché in fondo Vargas Llosa aveva negli ultimi anni abbracciato una svolta ideologica di stampo schiettamente liberale che lo rendeva abbastanza inviso ai circoli letterari, o a molta parte dei circoli letterari, per così dire, liberal di tutto il mondo, e quindi questo premio Nobel colma una lacuna. Vi segnalo in questa occasione l'ultimo libro che esce in Italia con i saggi di Mario Vargas Llosa, La verità delle menzogne, pubblicato da Scheiwiller, 280 pagine, 20 euro, ed è tradotto da Angelo Morino. In questo libro trovate 20 brevi saggi sui libri preferiti del Novecento del grande scrittore neo premio Nobel, da Günter Grass a Thomas Mann, a Joyce, a Nabokov e a tanti altri, che fanno appunto una biblioteca ideale alla quale ci guida lo scrittore. E a questo punto il confettino. Dopo la letteratura e la pittura passiamo alla musica con Alberto Benevelli, l'orchestra degli animali, con le illustrazioni di Loretta Serofilli, pubblicato da San Paolo, 12,50 euro. Qui troviamo un treno fantastico con gli animali che suonano ciascuno uno strumento diverso, e così i ragazzi potranno conoscere orsi e leprotti, ma anche tamburelli e cornamuse. E con questo ringrazio Margherita Aine in redazione, Filippo Oreggi in regia, vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potrete riascoltare questa e tutte le nostre trasmissioni. Grazie all'attenzione, buona domenica e appuntamento la settimana prossima.